stato toccato, no? Vabbè, l'antenna, quello che è l'umidità, la pioggia. Ma nessuno ha fatto come scherzo, sono affrontati con le stazionali. E le ha tolte. Anzi, non ancora un po'. Ecco. Così va bene. Thank you. Tanto da battaglia, dai, non lo sa, questo è il tuo. Ogni tanto lo facciamo andare. Ora. Già va bene. Ragioni, questo era... Qualche un po' di tempo fermo era lo stesso. Perché non sono stato qua a roba, avevo portato tutto e adesso l'ho attaccato. Ma dico bene, sono lui, lascio l'accento da niente. Perché pure un casino. Ma guarda come ci stava questa qua, sono qui, diciamo. Due tette che siamo due meloni. Luca. Come Giuseppe. Ma vabbè, Giuseppe, guarda, io ho un nome allucinante, ma io dico, ma niente, non siamo qua a mettere le foto del genere, ci vuole coraggio, Luca, non si fanno queste cose, dammi il nome del sito. Qui te para. Via Gianni, Giovanni. Qui te para di Pipasimaro, e buongiorno, e buon primo maggio. Dile, buon nome del sito. Me ne esala di sul rito e gli abbina la tua, come se ne traminata, abbina tu tutto in internet. Non mi senti più. sento abbastanza bene. Il microfono allucinante. Ma non che faccio così, guarda. Vengo il processore, me lo metto un po' così, no? Va bene lo stesso. No, ma va bene, non c'è bisogno di urlare. Ti sento e... Gesù Maria, mi sa pochetti. Andavera, aspetta un attimino, lo devo così. Vediamo un po', ti mando avanti Daniele, vai Daniele. Va bene, l'importante è non... non spaccare gli altoparlanti, no? Va bene, no? Ti sento, da come che siamo di persona. Positivo. È stato un piacere, Gio, qua, ogni tanto, Gabbo. Sai, ogni tanto ci serve qualche consiglio, qualche aiutino. Diciamo che la computer non è male, ma me la cavo adesso, va. Non sono un maestro, ma me la cavo, grazie a Dio, non... Per il momento, già va bene. Perché ogni tanto, sai cosa mi fa? Adesso, per esempio, lo sto usando, lo spengo, non lo fa sempre. Lo riaccendo, tutto vero, e inizia a fare la canzone, scritte, un per cento, 2%, 3%, 4%, cosa è Giova questa roba? Canzone, cosa va in... cosa fa lo scandisc? Modalità, come si dice, modalità schermata nera con scritte bianche. Andiamo per vedere. Che cos'è il PC? Un Acer, un Extensa 5220 dell'Acer. Quando lo riaccendi mi ha detto quanto lui fa. No, non lo fa sempre, adesso questi giorni non lo sta facendo, ma l'ho fatto siamo per volte, da quando l'ho formattato. Tipo lo scan disk, ti dice che controlla il disco, ti scrive questo. Che poi si riprende alla grande. C'è qualcosa che non va. No. Ma non fa lo scan disk, c'è qualcosa che non va, dice qualche settaggio della configurazione. Nel riconoscere l'hard disk addirittura, non è una bella cosa. Non lo deve fare quello, quello deve fare solo in caso che manca l'alimentazione, che si interrompe il programma, o che glielo ordini tu dalla pianificazione, ma è strano. No, non lo so che lo fa. E poi devo anche farmi i dischi di ripristino, perché cioè ogni volta mi tocca pagare per formattarlo. Ma lo faccio io, adesso vediamo se riesco. Guarda, io sono 10 anni che non ho formato, non ho mai formattato in vita mia, il mio PC davvero mai, non ce n'è bisogno, quando tu le fai le cose di routine va sempre bene, capito? No, i PC non sono dei giocattoli, funzionano perfettamente, a meno che non abbiano tanti elettrici, però diversamente se lo gestisci bene va da Dio. Sì, però purtroppo io frequento un sito che è un programma dove si fa chat, si canta, chi più ne ha più ne metta, però a quanto pare è un sito pieno di virus, capito? E forse è per quello. E magari dovrei mettere qualche antivirus buono. Boh, vediamo, dai. Se no, guarda, questo l'ho formato, pago, con un amico, con 20 euro così mi prende. A me. Sono le 50, 20, 25, lo uso la battaglia, uso questo, la battaglia quello là lo uso magari più, insomma, nei siti più tranquilli. Scusa, ma perché non te lo formati tu e non te le fai tu queste a voi? Non va, basta proprio fare. Come? Io non riesco a capire, avete la testa per premere il portante nelle palacchine, non sapete formattare un PC. In fondo usare la logica non vi farebbe male, capito? Fa bene un po' a tutti e via. Te lo dovresti fare tu, appassionato come sei, te lo dovresti fare al volo. Ma io parto la volo al volo e poi non c'è problema. Poi ti sto dicendo che è questione di impegno, basta. No. Capisco se ci sono limitazioni, ma solo per formattarlo non ci dovrebbero essere problemi. Ti cerchi driver collegato a internet, ce ne sono una camionata, c'è tutto quello che occorre. Sì, ma il problema è sempre lì, che se non lo vedo una volta non posso partire, ecco. Come fai? No, però non una volta, così capisco come si fa, lo faccio tutto qua. Adesso vediamo, c'è un vostro amico che mi vuole fare dischi di ripristino, fare un backup e poi vediamo se riesco, ma farlo vedere come si fa, salvo tutto quello che devo salvare e poi resto tutta la modesta e compro, mi compro un antivirus. Ah, ti dico una cosa, dammi un consiglio, di un, per un antivirus non, a non spendere soldi, ecco. Avast è numero uno, senza ombra di dubbio. No, ma non riesco a capire, no. Cioè, allora, se fosse stato per salire in groppa alla donna, avresti visto che non ci sarebbero stati problemi di cercare come fare. Ma io dico di questo, ma c'è internet, ce l'avete davanti. Sa Google, no? Entri dentro. Bene. Digiti quello che vuoi, te lo dice. Credo che leggere non sia una cosa complicata. Piano piano cerchi di capire e ti fai tutto quello che vuoi. Ma io ho visto uno, guarda, non sto scherzando, che questo qui in vita sua non ha mai preso il PC in mano. Adesso l'ho detto, guarda che su internet c'è tutto. E ce l'ha fatta, adesso se l'ho formata pure. E non ce la fai tu. Lascia un attimo di bianco, vediamo un po' che ce l'ha come guardare. Qualcuno vuole entrare? Io non sento nessuno, sinceramente. Dopo lasciamo 10 secondi di bianco, boh. E adesso vediamo, dai, devo fare. Stiamo rilanciando a Daniele, non so se c'è ancora. Daniele, ci sei? Ehi, allora, sono qua, vi sto ascoltando. Tu hai compiato, non Giova? Sì, ciao Daniele, buongiorno. Ciao Giova, ben sentito, buongiorno. Ti ascolto benissimo qua, 6-7, la 10. Canto io qua, però un po', sono con... aspetta. Ho una cinquantina scarsi. No, io sto usando un Lincoln adesso, saranno neanche i figli, mi aspetta che scendo pure, aspetta. Prova a scendere. Vai Cina di qua. Bene, una volta che tu hai il disco pirata, piatta, così copiato da un altro di quelli, diciamo così, molti installazioni. E poi hai tutti i driver, non fai altro che prendere e mettere dentro, boh. È una cosa, una procedura stupida. Non lo so, boh, vabbè. E questo è un impegno. Se vuoi continuare a pagare 25 euro a colpo, fai pure. Mio fratello vuole 25 euro, prima ne voleva 40. La 40 c'era 25, mio fratello, ma te ne dico conto? Ma sai, il loro lavoro, non so se... Non vuoi che ti dica, è il loro lavoro. È un po' come dire, scusa, mi imbianchi questa camera per, che ne so, per 5 euro se il prezzo reale è 20 euro. Non si può fiscalizzare il lavoro degli altri, no? Già ce n'è molta gente che non paga, tutto lì. Prego! Va bene, pazienza, accontentati di quello. Alla fine io ti consiglio invece di farti un giro in internet, ti busti Windows 7. Spendi una volta, alla fine se proprio vuoi fare una cosa decente, no? Spendi 100 euro e te lo compri. E ne fai quello che vuoi. Poi ti prendi i driver da internet e piano piano entri dentro il sito della marca delle PC, ti devono dare i driver di supporto, li trovi perché li trovi, una volta che ce l'hai, puoi stare tutto l'anno formatando. E si sono di break? Come? C'è un break, avanti? Guarda, io guardo male, diciamo le pulizie me le faccio io, tutte le occupo di tutto, ecco. Ho imparato così. Ma non degli amici, quelli che entrano, intanto perché c'ho problemi di audio, altro parlato come lo faccio io, anche la momento all'atta io, tutto, non ho avuto nessun problema. Per me l'audio va benissimo, ho un audio sia in uscita che in entrata che guarda un bijou. Vabbè, ma non è che il minimo lo devi sapere. Ti fai mi aiutare l'amico tuo. Lì, Daniele, come si chiama? Pia. Ok, aiutare Daniele. Vai lì, Pia, capito? Si va a vedere un po' la procedura, controlli se sono state 4 bit, carichi per essere 4 bit, vedi un po' come sono i driver, controlli tutto con lui, già lo trovi. Una volta che lo sai, almeno il tuo riesci a sistemarlo. Sì, adesso vediamo, vediamo un po'. Perché ogni qualvolta mi tocca formare, cioè pagare, lo faccio io. Ma dimmi una cosa invece, a proposito di formattare, ma se si mette un sistema operativo craccato, se fai l'aggiornamento cosa succede? Pronto? Andiamo qua. Chi è? Ho detto, mi senti già qua? Non lo sai che c'è qualcuno che mi sta chiamando avanti? Tu! Aspetta, chi è? Di nuovo, tu sì! Aspetta, Luca, non si capisce niente, vai sul 4, di nuovo, torno subito lui, riprendi. Sì, dimmi Daniele. Dai, io vado a mangiare, dai, se tardi se coincide. Vabbè, buon pranzo Daniele, alla prossima. Comunque io ce l'ho, come stavo dicendo tu, la parola in cinese. Presto sta andando, capito? Che non è originale. Se non gridare non ho capito niente. Cioè tu? Ho detto, io ce l'ho traccato, eppure sta andando tranquillamente. Ma dico, ma gli aggiornamenti li hai bloccati? No, sta facendo tutto come se fosse originale. Anche, aspetta, gli aggiornamenti, adesso non mi ricordo il nome, io fa molto spesso il mio. Uno lo fa sempre, quasi ogni giorno, vabbè non mi ricordo, dai, già lo vediamo Daniele, dai, ogni qualcosa mi tocca pagare, Ah, perché? Se io sono bloccato il 32, perché sono 64? Io sono bloccato il 32, abbiamo fatto 13, ho una cazzata. Un attimino, due secondi, aspetta, dove devo andare per vederlo? Allora, computer, non computer, sì, computer, proprietà del sistema 32 bit, tipo di sistema operativo 32 bit. Sì, c'è 32 bit, quanto c'è di RAM? Un giga e mezzo. Sì, 32, passato a 4 anche il 64 bit avrebbe supportato. Positivo. Quindi, dai, fammi sapere qualcosa, Daniele. Così lo facciamo, cioè voglio di imparare, so fare quasi tutto, mi porto un bicchiere d'acqua. Ma poi non dai, ci sentiamo per accariccare, dai, buon proseguo e buon tutto. Grazie, ciao, salutami la tua ragazza, ciao. Va bene, grazie a porta sua, ciao Lugari. Ciao, Giuseppe. Ciao Lugari, ho ripreso dalla macchina adesso. Ragazza. Cosa devi imparare nei computer, no? Cosa ti è successo? No, è proprio guardato, mi sono di figli di ripristino. Ma di cosa? Di XP? No, 7. Come ti vorrei aiutare? Li sto cercando anch'io, Luca. Ma io mi ricordo quando ho preso il computer, il primo computer che ho preso con i XP, me l'abbiano dato tutti i dischetti. E ce l'avevo i dischetti di XP, ci siamo ancora, avevo preso il PC da un amico, mi sono rimasti, come si chiama? E i driver e il dischetto per formattarlo, originali, Positivo, quindi già ce li ho. E l'ultimo che ho preso, il 7, non mi hanno dato nulla. E lo so, un casino, eh. Cioè ogni volta devo, come si dice, devo pagare, che cavolo. Ma detto di venire da qua dove siamo noi, e io ho lasciato un attimo vedere qua sto. Sì, sì, dopo va bene, niente, adesso vediamo se riesco. Devo per forza, cioè, ma io una volta solo, ma se non lo vedo non c'è problema. Se poi si conosce qualcuno che in qualche maniera se ne fa bere, e vi prendiamo, poi facciamo qualche coppia, non è quello il problema. Ma ci li vogliamo pagarti? Ma dividendo la spesa non è un problema, perché noi da uno ne possiamo fare quanti ne vogliamo. Sì, lo so, bisogna vedere un po'. Stavo parlando con Giovanni da Ittini, lui ci può aiutare. È positivo, lo dai. Se sei qualcosa tu fammi sapere, se so qualcosa io sarà mia cura avvisarti immediatamente. Positivo, infatti devo anche vedere un po' come... Allora, ecco, vedere un po'. Adesso vediamo un po' se riesco a trovare questa persona e quanto vuole. Perché ho trovato questo amico, mi ha detto, non ci sono problemi, ti posso anche pagare, no, non voglio niente. Al massimo gli ci compro una sigaretta e me li faccio fare. Chiuse, no, diamo ragione per quello. Quindi stavi dicendo per il programma che non è originale? Dico, no, se ci possono fare gli aggiornamenti. Certo che si possono fare, basta troncargli le costole. Capito? C'è il sistema, è come se c'è, addirittura io te lo rendo originale, non tranquillo. In tutti i modi, o in un modo o nell'altro, o richiamandolo dal sistema che sia 3264 bit, modifico il legit check file, no? Con una modifica particolare e lui va fuori, capito? O lo bypasso o lo rendo addirittura originale. Vai sul controllo automatico praticamente del programma, no? Che vai sul DVD, puoi fare il control check addirittura, e ti dice addirittura che è genuino, si scrive genuine quando è originale. Quindi qualsiasi programma può essere craccato, ci sono comunque dei buchi nei programmi che permettono queste cose. Sì, ma giusto per saperlo, perché ne ho detto che quando non è originale ti dà problemi, a seconda che l'aggiornamento fai ti si blocca tutto. Vediamo, vediamo cosa fare, perché arrivato a questo punto ogni volta mi tocca pagare, ripeto, io frequento questo sito che è un sito, cioè una chat, ecco, è mondiale, c'è tutto il mondo, e purtroppo è pieno di virus lì dentro, se come lo vedi, a me mi hanno fottuto un computer, mi hanno mandato questo file, avevo la lista aperta degli amici e mi hanno fottuto l'XP, non l'avevo più bloccato, proprio non. È fatto. Adesso vediamo un po', in qualche maniera già ci organizziamo, dai. Adesso chiudo lo che sono arrivato, ci sentiamo presto, ciao a tutti. Ciao Giuseppe, buon pranzo, alla prossima, ciao. Altrettanto a te, ciao. Ciao. E vabbè, mo vediamo, va. Un attimino Gabino, un attimino solo, provo subito che sto facendo un lavoro che non posso mollare, il compito non, il baracchino non ce l'ha portata di vista, prova a venire avanti, la voce te la dici, io sono Sassa di Giambaldetta, piatto. Attenzione Claudio, attenzione giù 10, anzi Bombolino, me Leo Giro sono, come ti arrivo qua, sono Prenanieta, cambio è un passaggio Leo Giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono l'auto da bacio di cacciare di pronto a ricambi torre, c'è cambio. Ma non vuoi vedere Radio 5 a Bombovessa? Cappa, va bene, già va bene. Va, è Radio 5, e se non si fa prendere. Mi ero qui a lavare la cosa, la BM, la macchina. Ha trattato di sole, c'è un bel sole, vado e mi lavo la macchina, cambio. Fatto bene, Franco. Cappa. Cappa. Adesso stai ritornando. Cappa. Adesso sto ritornando a casa. Che ritorno a casa, poi stasera devo salire un attimo a mio fratello, che devo fare un lavoro con mio fratello, e dunque ci sentiamo stasera. Cappa, cappa, non mi sento chiamato ad uscire. Cappa. Sentiamo ad uscire 5 minuti, un po', per svagarmi. Cappa. Giustamente, un po' di svago ci vuole, ogni tanto. Cappa. Fai un FM che lo voglio sentire, male ti viene. Mica, mi viene un po' male, sono titolato a parte, capito? Devo andare un attimo qui a Fabia. Si è aperto, devo prendere roba, capito? Cappa, no, volevo sentirlo in FM, capito? Sentirlo? FM l'apparecchio, volevo sentirlo, vedere com'è. Già, non si sente in AM. No, non si sente in AM. Che già fa cosa, è così. Ok, da. Comunque, in AM com'è, è uguale. Sì, sì. Già. Ah, ma già va abbastanza bene, è molto comprensibile. Cappa, va bene, già va bene, già va bene tu. Piccolino, ma sincero, te l'ho detto, ce l'ho dentro, te l'ho detto, dopo lo metto, no? Dentro il coso per il portoggetti, hai capito? Ce l'ho lì dentro, nascosto, con i manchi fuori, capito? Gliel'ho fatto passare pure, dunque, non si vede niente e tutto quanto, solo i manchi si vede, cambio. Cappa. Adesso il filo quanto è morbido, si presta bene anche. Cappa, si sente bene. Ci vede, è un buon filo, buon tutto, fanno delle cose veramente ultime la Lafayette. Io te l'appoggio. E io te la infilo, Pompogna, buonasera. Buonasera, buonasera. Antonello. Pomponio, come si sente questo piccolo barattino della Fayette? Bene? Allora, se vuoi un pacco di favette ce l'ho, Cos'è? Se vuoi un pacco di favette proprio della Fayette ce l'ho. Cappa. Sono un'offerta dello spio, 1,49 centesimi, un pacco di favette. C'ho le favole, c'ho le pennette e tutto quanto. Anche quella c'è un'offerta al salmone. Cappa. Oh, Pompone, oh. Ehi, ciao Antonio. Cappa. Ma siccome adesso lo posso usare, adesso me ne ritorno con l'altro. La sera uso questo, dai. Usa, attacca Bastiano. Io Pomponio. Dimmi. Io Pomponio? Uia. Allora, Antonio. Dimmi tutto. Eia. Ero me a fare un favore a Nico. Che ne ho trovato due sedie belle. Una ne ho data a lui e una me l'ho tenuta io, l'ho portata a lavare, capito? La sedia, tutta quanta. Adesso, stasera, se ti fa venire al circolo, ci vediamo una cosa. Va bene, dai, già non c'è problema per quello. Sappasa. Stavo, mi ho acceso, ci ho acceso. E non ascolto su 10, poi stavo ascoltando un'altra volta a parte. E c'è Davide, invece. Non il 27 attualmente, un altro, in un altro posto. Ci stanno stufando a parlare qua. Cappa. Oh yeah. E beh, è quello di sciabucco lì, di fluzione di Antonella di Ulce, che fine ha fatto? Non lo so, è entrato per non più sentito. Già entrerà. Eh? Ho detto già entrerà, senz'altro. Se non vuole entrare, fa segno per lui, noi siamo qua, voi. Adesso io arrivo a casa, mi sdraio un'oretta, un paio di ore e poi salgo da lì. Faccio le 6:30, sono lì. Va bene, d'accordo. Ciao. Vai, caro. Ehi, sono tutto gonfio. Allora, dove sei arrivato? A direzione cosa di via allora città di via Pascoli. Ma che te ne faria? Perché? Sì, sicuro, mi stai arrivando a fondo scala. Vabbè, non è tanto lontano da me. No, non è lontano, adesso sto girando qua per via via Valletta. Adesso c'è già appena appena, a quel punto deve essere che la c'è quel varco proprio, vedi, proprio 9:30 spaccate. Cappa, vedi, a toccare Antonio, le cose quando si fanno bene, si fanno una volta e poi non si toccano più, cambio. La cacca o si fa bene o si fa bene. Avanti, buon festa. Beh, adesso siamo contenti perché con Antonello abbiamo messo tutto quanto, abbiamo fatto tutto il lavoro, pulita l'antenna, la Turbo 2001, pulita perché c'era, abbiamo svuotato mezza macchina, abbiamo appunto tutto quanto sopra la carrozzeria, era tutto quanto, non faceva bene massa, abbiamo tutto quanto pulito, abbiamo bene pulito la macchina, tutto quanto registrata, controllata stazionale, 1:01, adesso siamo a posto, cambio. No, se si vede che sta arrendendo, ma sta a posto gli altri. Sta a posto. Dice che mi preparo per scendere al centro storico, ci sentiamo stasera, là. Statevi bene, buon proseguimento. Papa. No, Bobo, dai, ci sentiamo. Sì, ya, ciao, ciao. Leoci, arrivi tu te. Quasi. Come, non ti ho capito. Sto quasi, sto posto il giorno adesso, hai capito, a tu. Appagappa, già andò bene. E riprendo da casa, dai, 5 minuti, dammi 5 minuti e riprendo da casa. E come vuoi tu? Avanti. Sì, allora. Buonasera. Ehi, là, buonasera, già. E allora? A dopo, sì. Casa, sì. Yeah, sto tornando dalla vagista perché ho portato una sedia a lavare e dunque stasera devo portarla a mio fratello che la deve pitturare, hai capito? Cappaga, era parte la vagista, ma la vagina da 25 minuti. Ho detto, perché l'hai lasciato tu a farla? Sono andato io a farla, non hai capito? La vagista giù a di fronte a Ricambi Torres, quella roba lì. Ho fatto la faccia. Le ho passato prima qualcosa per i cerchi, poi il sapone, quello per poi l'ho sciacquata, capito? È uscita abbastanza bene, ma com'era? Nera, è diventata abbastanza bianca adesso. Era nera sporca o nera, nera verniciata? Sì, con il nero sporco, capito? Con il nero sporco e tutta quanta con la spugnetta ruvida, tutta quanta bella pulita, hai capito? Tutto è fatto uscire tutte quelle cose nere, faceva tanto, l'avevo trovate queste due sedie e dunque ne ho dato una a mio fratello, se l'ha pitturata e ce l'ha a casa sua adesso porto questa qua, la pittura e poi la riporto a casa. Ma sono sedie particolari o sedie normali? Sono sedie particolari, capito? Quelle che hanno, come si dice, quelle proprio antiche, capito? Sono quelle sedie antiche che hanno il coso, come ti posso dire, di stoffa, capito? Quella cosa là, di lana, hai capito? Rifinite così. Ma quelle intarsiate, Hai capito già? Figlia. Particolari e dunque adesso la porto un amico e ieri gli ho comprato la bomboletta e lì là e poi la vernicia stasera poi quando è pronta me lo dice mamma, hai capito? Andare ho capito. Solo sì, non c'era nessuno. No, stavo parlando con Antonio, che ero lì a Trovetta Prevenienda e stavamo provando quel baracchino, il nuovo che ho comprato. Bene. Abbastanza bene. L'arrivavo a casa sua da lì 9:20 quasi. Vabbè. Sembra che c'era, non so se ha fatto quelle qui, Antonella Pomponia, boh, non lo so. Devo andare a Sassari Vecchio forse. Sassera. Ci sono andato. Poi sì. Se veniva al circolo. Capito. Ma io mi sono riposato un po'. Il tempo come? Un po' c'è il sole, però non è molto, c'è un po' di venticello, però non è, già è una bellissima giornata, hai capito? Da qua per uscire in moto. Ah, non ho voglia, sono stanco, poi mi fa male il braccio, è molto guai. E poi domani c'è tutto il giorno da fare. Ma ce l'ho secco. Ho detto che domani si riprende la giornata dura, hai capito, tutto il giorno. Sì, ho fatto per 32 anni, problemi ci sono. No, e va bene, non è quello il problema, però era giusto per... pensavo che facevi solo sino all'una e mezzo e poi basta, pensavo che riprendevi dalla settimana prossima, hai capito, da lunedì. Non riprendo la domanda. E io riprendo giovedì. E da te? Oggi sarei stato lavorando, però è festa e dunque non è capace che mi vorranno domani, perché è mercoledì, è capito, ma non penso. Domani riprendo tutti. Adesso proprio di sì. Adesso vediamo un po'. Riprendo domani. Se ok, dai, ti lascio riposare un po' e ci sentiamo al limite più tardi, dai. Già riposato, non devo riposare. Se devi riposare non conto, ma io ho già riposato. Mi sto rilassando, ma già riposato. No, pensavo che una trappinicca la te la facevi. No, non c'è sempre di un mezzo, basta una. Una volta che dolo una volta, basta. Zappa. E vabbè, ti sei riempito la pancia, tranquillo, hai mangiato roba buona. Beh, no, invece io ho mangiato, c'erano gli spaghetti fatti con, li ha fatto con i cosi, con le verdure, capito già. No, io ho mangiato riso alla milanese, con i funghi e lo zafferano. E poi un po' ha preso mia madre, ha comprato uno di quei polpi e l'ha fatto a aglio, peperoncino e prezzemolo. E quello di voi, può pensare. Lo sapete cosa ho mangiato io? Eh? Ve lo dico. Lo dici? Ma mangia tutto là e sempre. A quella faccia piena state parlando di mangiare. Buonasera Gigi, Vulcano. Buonasera, con la faccia piena e parlando di mangiare, poi io non vi capisco a voi. Ciao Gigi. No. Giuseppe, che ogni tanto ha nostalgia di mangiare qualcosa, deve essere ogni tanto toglie fuori la roba da mangiare. Positivo, eh? Dai, scusate, sono entrato bruscamente qua, sto manovrando un po' di cosette, raccoccando, spostando, rifacendo, sfasciando, aggiustando, rifasciando, riaggiustando. Siete sovrappopolati. Positivo, eh? Copiato, ci ciao. Perché Giuseppe ti ha fatto castigato. Fai da bravo, se non mi vuoi ti tiro le orecchie, quando non mi calpestare a me. Che indovini come sto uscendo, oggi, con quale microfono sto uscendo, dice non è vero. Sono, dimmelo. Dai, aspetta, torna a fare un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Accendo un microfono normale, normalissimo, perché la sento normale io. Ma quale però? Ti ricordi Gigi? Quale che mi hai dato? L'avete dato io l'amplificato, questo non è amplificazione. Questo è il coso, l'Alan F10. Non è amplificazione, ma anche il bip quello là mi sembra, o sbaglio? No, non ne aveva, era normalissimo, hai capito? Ma me l'avevi anche detto, guarda Giuseppe, che quel microfono, quello è normale, usalo così, che va bene così. Niente normale, ma normale, tu cosa intendi dire Giuseppe? Quello che ti ho dato io era quello con lei, che c'aveva per l'amplificazione con la batteria, o l'ho trovato quello lì, mi pare. No, è un altro, questo è un altro che me ne avevi dato, questo è un altro perché ti avevo detto che quello là non funzionava bene, allora me l'avevi cambiato, no? E dunque mi avevi dato questo Alan F10, mi ha detto usalo così che questo esce meglio di quello là. E tu sei detto che me ne ammetto, io mi ricordo che ho dato un microfono amplificato, è venuto con Pomponio e ce n'erano tre o quattro sopra, veramente te l'hai scelto tu, altri te l'hai scelto Pomponio, tu, ti ricordi? Io quello mi ricordo. Questo qua, questo, l'ANA F10 è. Ce n'erano due o tre ce n'erano mi sembra, se non sbaglio, te hai scelto quello lì, ti ricordi? Vediamo le cose, è questo qua, quello normale, normalissimo, quello senza amplificazione, senza niente, solo che c'è il mio e il massimo, hai capito? Come così, guarda, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. È amplificata, io ho ragione già, perché c'è l'F16 mi pare così, è già l'F12, come cavolo è. Ma poi ci sono un po' di quelli ala, ce ne sono ne avevo un paio di quelli lì, e ce n'era uno che c'era addirittura il bip, ma te l'ha portato via tu, mi sembra quello col bip, che se l'ha portato via, lo farei tu, c'è uno che c'era anche il bip, che mettevi anche il, c'erano due, uno c'era il bip e uno che non aveva, e poi ti ha preso quello col bip, tu le stai dicendo. Io non me lo ritrovo, può darsi che questo qua non è abito, perché io sono normale, quello, poi Antonello non lo so, quando me l'ha piazzato, non so cosa è successo all'altro, mi ha dato questo qua, capito, l'F10. F10 non c'avevo l'F10, mi pare che era 14 o che cazzo era, no, c'aveva il bippi, quello che ti sei preso, si è scelto Antonello, ha scelto quello col bippi che c'ha, quel bippi che fa quello che mette Antonello, c'è una specie di bippi quando mette quelle a lui dove è andato a finire quel microfono. Non ricordo benissimo, te sei preso, te lo metti a scegliere, e ti sei scelto quello con il bippi. Me lo ricordo ancora, me lo ricordo come sia adesso. Volevano solo invertirti le polarità dello spinotto, hai capito? Mi pare, se non sbaglio. Se non sbaglio, capito? E cappa, e adesso che me lo sto ricordando, cioè è vero, cioè è vero, cioè adesso non è, me ne era uscito fuori dalla mente. Va bene, riprendi Gianni, doppio ru. Quello di stamattina stai dicendo, quello che c'è in macchina. No, questo. Però Gabriele, ti ricordi che stavamo volando una volta con l'altro apparato, quello nero che avevo? Quello lì, con quello io sto modulando adesso. E non c'è la rotellina sopra quello? No, quello della macchina no, quello è macchina, questo è quello di casa, hai capito? Gli ho comprato lo spinotto A5 e gli ho fatto fare tutti questi collegamenti da Antonello e glielo faccio fare uguale, hai capito? Per non sapere che sempre con un livello di coso, con l'M+5, quello da tavola. Non ho capito. Schiacci tu, dove schiacci il PTT per parlare, lì c'era un tastino piccolo che andava e metteva il bippi nel tastino, tu spostavi in avanti e indietro, lo spegnevi in avanti, c'era un tastino che lo spingevi nero stesso, che non si vedeva, era dopo, dove c'era il PTT, quello dove schiacci col dito tu lì, in mezzo c'era un tastino, tu lo spingevi e ti metteva il bippi. Mi pare la 24, può essere già, F24. Sì, può essere, certo. Il 24, F24 mi pare, non 12, né 14, il 24 ti ho dato io. Non so, me lo dobbiamo chiedere, perché non so dove, l'ho dato a lui e mi ha detto che me lo dovevo controllare e adesso speriamo che me l'abbiamo messo a posto col microfono, vediamo. Il microfono funzionava, era che per l'apparato aveva invertito i cosi delle polarità dello spinotto, quello volevano invertire, capito? Solo quello voleva invertito, la polarità del microfono, dello spinotto, dai. No, che tu non volevi mettere, ci avevi a 5 come di quella in casa a 5 punti, cos'è che volevi fare? Io ho trovato quella a 4, tipo la 48 andava bene. Quella 5 sono a 5 punte, hai capito Gigi? Quella 4. E tu c'hai la 5 e doveva fare il coso pomponio. L'attacco a 5 doveva fare, perché mi pare trovato poi l'attacco, se non sbaglio, ti ricordi? E cappa, ega. E come avevi dato quei due specie di cose di bussolotti per l'antidisturbo, ma ho visto che adesso antidisturbo non ne ho perché gli ho fatto una cosa particolare in macchina per non sentirsi tutti quanti i rumori, capito? Positivo, dai. Andrà bene ragazzi, dai. Ma volevo solo il 7. Via. Positivo, dai, ero sul corso facendo le prove con Massimiliano. Dai, vi tocco il disturbo, dai, riprendetevela voi che ho lasciato nel parcheggio, va bene, ho preso il caffè Massimiliano, stavamo facendo delle prove su un'altra cosa. Andrà bene, continuate al limite e poi già ripasso, dai. Io c'ho quale disturbo, se vuoi restare non c'è problema. Ma bisogna accontentare a tutti, dai, se non c'è bene, stiamo facendo le prove, mi ha lasciato come un asino qua, capito, non va bene. Poi inizia la gelosia, capito? Dice, vedi, mi ha abbandonato e sei andato da un'altra parte, e mi ha abbandonato a me, no, ma adesso scherzando, dai un attimino, si è ripreso, che è andato a farsi la caffeina, dai. E stavamo facendo le prove delle regolazioni sul 45. Dai, riprendetevela già, al limite dopo già ripasso qua, se non c'è. Non c'è problema, vedi tu. Qua non disturbi per niente. Se vuoi fare come vuoi tu, non c'è problema. Avanti, Giuseppe. Se devono fare le prove è meglio che per me non c'è nessun problema, ci può rimanere. non ce n'è problema, cambio. Se ce ne andiamo a un canale che è libero, che non c'è nessuno, dai. Stavamo facendo anche l'altra mattina facendo delle prove, è meglio ce ne andiamo a un canale che non c'è nessuno, così non scocciamo, dai. Ci siamo spostati anche a 50 e c'era uno con la portante che seguiva anche quando stavamo facendo le prove, solo che non ci dava nessun fastidio perché io e Matteo Diano siamo vicini e anche se andavo a bassa potenza, al minimo non ci dava nessun fastidio, anche se metteva la portante, perché eravamo troppo vicini noi, dai. Lui e San Giovanni e Ottavo eravamo vicino e la portante non ci dava fastidio. Allora una cosa, Gigi, la tua cosa a Salvatore Baragricola non è più sentito? Non l'ho più sentito? No, è vero, adesso che me l'hai detto, perché? Allora era giusto per neanche noi l'abbiamo più sentito, ho detto, è stato strano che questo qua c'è il baracchino e non entra più, non sta più entrando perché o è offeso oppure gli hanno fatto qualcosa, boh? Gli hanno fatto nulla, e cosa deve fare? L'ho visto, ma non si sa che da ieri, non lo sai, non ho visto, ma sento questo suonare in macchina, lo stavo scendendo in vettura verso prima di San Giovanni, e sicuramente da lui ho riconosciuto la macchina, sento questo suonare, e alle puntiere, quando sono uscito dal lavoro ieri sera, ho sentito questo suonare, stavo andando verso Sastre, ed era lui, sicuramente, e non era lui perché la macchina era sua. Ma c'è sempre quella, cos'è? Che cos'è? Che macchina è? Un Opel? Positivo, la Opel. No, già è vivo, quello te lo posso garantire perché l'ho visto ieri, l'ho incrociato ieri, vuol dire che ancora è a posto. Se entravo, se lo senti, salutalo da parte nostra e digli di entrare, che almeno per fare quattro chiacchiere, che non l'abbiamo più sentito. Positivo, è positivo. Ragazzo, dai, al limite appoggiare il passo, vediamo un po' se c'è Massimiliano in parcheggio e passo da lui, si è ripreso un attimino, dai. Ciao Gigi, buon acqua e si greca, dai. Ciao. Leo, dimmi. Che prendi tanto? Oh, non sai che mi sto stancando, cazzo. Devo fare qualcosa, se no mi trovo d'oro. Ehi. E cos'è questo? Salvatore, madre, musica, jazz. Il porto, però non so che porto è, adesso c'è il porto di Alghero, molto bellino, mare di Puri. Ti ho capito, no, stai facendo un passo di radio, come va? Passo di radio? Dai, prova a avvicinarti il microfono un po' di più. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E adesso ce va bene. Ho letto che Antena 1 stanno facendo vedere questa cosa del porto, adesso ci sono i sub che stanno guardando i cosi dei coralli, il gran cu, il coso, l'aragosta. E allora che? Adesso dentro la chiesa c'è la Madonna e ce la stanno portando fuori. Vedi quei filmati del mare, io me li guardo sempre, quei documentari mi piacciono un bacio. Alghero, sì, adesso c'è qui un gommone col motore Honda, no, non è coso, ho visto la torre, Foro a Torre, e allora è qualche processione che si fanno loro. Zappa. A Foro a Torre c'è anche la processione in mare, lo sai, con le barche e tutto quanto. Ci sono gli idranti che buttano l'acqua in alto, tutte le barche in fila. Io. Adesso il coso dei camper, nuovo e usato il camper, 079 51 63 12. Bellini questi camper. Camper. Cappa. Pochissimo mi manca. Si è venuto di pisci. E a vino la pizzeria, mi. Ristorante. E così, allora il camper lo rimasti tutto. Insomma, la piazzetta, casa, faceva vedere tutta la pubblicità dei negozi, della piazzetta, quella roba lì. Guarda, c'è il televisore, lo stai guardando. Che amico. mi alzo e vedo, facendo il computer, per fare qualche cosa.